Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della Germania, nel senso che oggi molte notizie arrivano proprio dalla Germania. Intanto, a sorpresa, una crescita inferiore alle attese. La Germania ha chiuso il 2012 con un più 0,7% del PIL. Lo dico perché, da un lato, sapete anche l'opinione di chi parla sulla posizione tedesca, diciamo fino a luglio, nella gestione della crisi dell'euro, ma dall'altro anche perché la Germania resta il primo mercato di sbocco per le nostre esportazioni, resta l'economia più forte dell'area euro e resta chiaramente la locomotiva, anche se un po' infrenata, dell'area euro. E quindi quello che capita in Germania obiettivamente è anche molto più importante delle volte di quello che non capita negli Stati Uniti stessi. Dicevo, più 0,7% del PIL nel 2012, una crescita molto modesta, di solito tra lo 0,5 e l'1 si parla di quasi stagnazione, anche perché va paragonata con il più 3% del 2011 nel PIL tedesco. Ma la cosa più sorprendente è che la Germania ha frenato nell'ultimo trimestre del 2012. Voglio essere subito chiaro, non c'è nessun godimento e la cosa più sbagliata sarebbe dire ma il comune mezzo gaudio. Non c'è nessun gaudio per i motivi che ho appena detto, perché se frena la Germania comunque non è una bella notizia nemmeno per il resto dei paesi dell'area euro. Poi c'è una valutazione che uno può fare di carattere politico, e cioè forse anche per questo motivo, perché arrivavano i primi segnali di una frenata anche tedesca, che la Germania ha ammorbidito le sue posizioni negli ultimi mesi, ma queste sono valutazioni, non fatti. Ancora nella seconda ora del programma anche Focus Economia si occupa dei temi legati al sociale, disabilità, risorse per i più deboli. Come sapete, questa settimana è la settimana che Radio 24 dedica ai temi del sociale, con vari programmi, con vari tagli, con un viaggio ogni mattina nel nostro GR delle 8. Noi ce ne occupiamo col taglio di Focus Economia, quindi un taglio economico, andando a vedere che cosa hanno fatto i governi dal 2008 adesso in tema di disabilità, di fondi stanziati, e cercando di capire quelle che possono essere le richieste di chi rappresenta o studia questo mondo, che non riguarda una fetta piccola della popolazione italiana. Sono il 4,8% secondo l'Istat i disabili in Italia, disabili da un punto di vista fisico o anche mentale, e l'Istat stessa riconosce che è molto difficile stimare però il vero ammontare, il vero numero dei disabili mentali. 4,8% della popolazione è una cifra obiettivamente che deve far pensare. Sono 3 milioni complessivamente di persone quelle a cui viene riconosciuta una disabilità in questo paese. Ancora la borsa invece, più 0,30% in questo momento Milano, che torna a essere, dopo lo stop di ieri, torna a essere la borsa migliore in Europa. Parigi meno 0,24, Francoforte meno 0,80, Londra, l'America soprattutto in questo momento è meno 0,16%, Londra è assolutamente invariata, 0,00 in questo momento, poche volte lo vedo, ecco adesso meno 0,01%. Tra i titoli, Salvatore Ferragamo più 3,17, Snam più 2,80, UbiBanca più 1,90, Monte dei Paschi più 1,70, Intesa San Paolo più 1,40, Luxottica più 1,20, come Parmalat, Saipem più 1%, Enel sia come Green Power che come Enel più 0,90%. E chi perde di più? Mediaset meno 3,33, Telecom meno 2 come Azimut, Ansaldo meno 1,70 come Exor, l'1,60 lo perde Mediolanum ma anche Fiat, e l'1,35 è il calo di Generali. Tenaris meno 1,1, A2A meno 1%. E di Fiat parleremo ampiamente, non solo per le dichiarazioni che ieri ha rilasciato Marchionne dal Salone dell'Auto di Detroit, ma anche per quelle che ha rilasciato, e soprattutto per quelle che ha rilasciato oggi, nel giorno in cui la Fiat ha richiesto per lo stabilimento di Melfi, quindi a Potenza, la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale dal prossimo 11 febbraio fino al 31 dicembre 2014. però ha fatto sapere che la produzione dell'appunto nello stabilimento di Melfi continuerà anche nei prossimi mesi dopo l'avvio della cassa integrazione straordinaria per una ristrutturazione che serve per realizzare dei nuovi modelli di auto. Gli interventi riguardano solo una delle due linee di produzione che ci sono a Melfi, sull'altra invece lavoreranno a rotazione gli operai per continuare a produrre l'appunto. Questo è il fronte, diciamo, produttivo italiano. Sergio Marchionne ha chiarito che la cassa integrazione è necessaria, lo stop di una linea è necessario per installare le nuove linee, per fare le nuove vetture, e poi ha detto non vi saranno altri impianti chiusi in Italia, a breve faremo un accordo per fabbricare anche la Jeep in Cina, mentre il Ducato verrà prodotto in Messico, e poi domani dovrebbe esserci la stretta finale a Torino sul contratto specifico di primo livello che interessa però 80.000 lavoratori. Questi temi, rapidamente le altre notizie in breve, fermo restando che per scrivere al programma c'è sia Facebook che il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Petrolio in leggero calo a 93,91 dollari al barile, l'oro che risale leggermente a 1671 dollari l'oncia, nel giorno in cui sul fronte delle materie prime il gigante minerario anglo-americano Amplats, che è il primo produttore di platino al mondo, ha annunciato licenziamenti per 14.000 persone in Sudafrica. E la decisione arriva dopo l'aumento costante dei costi, spiega il gruppo Amplats, e il continuo calo dei prezzi del platino, tant'è che verranno chiusi 4 impianti nella regione di Rustenburg, a nord-est di Johannesburg. Sul fronte americano invece l'agenzia di rating Fitch ha detto che in caso di fallimento, una delle agenzie che danno il voto ai paesi oltre che ai privati, ha detto che senza un'intesa sul debito, sul cosiddetto fiscal cliff, precipizio fiscale, l'agenzia avvierà un esame formale del voto dato all'America, negli Stati Uniti, minacciando un taglio del giudizio, che attualmente è tripla A. Nel frattempo la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, un po' sulla falsa riga, se posso permettermi, di quello che ha detto la settimana scorsa Mario Draghi, ha precisato, attenzione, non c'è nessuna intenzione di interrompere le misure straordinarie e non convenzionali messe in campo per favorire la ripresa americana. E lo ha detto nel giorno in cui il gigantesco, il mega fondo sovrano della Cina, fondo di investimento statale, cioè usa i soldi dello Stato cinese, si appresta a ridurre i suoi acquisti di titoli di Stato, di BOT, diremmo noi, di T-Bond americani. Lo ha spiegato infatti il presidente della China Investment Corporation, precisando che non vogliono azzerare gli acquisti di titoli di Stato americani, però ridurranno quella che è attualmente la dotazione, l'investimento. Pensate che hanno 480 miliardi di dollari da investire come fondo, gli investitori del China Investment Corporation. Sono tutti soldi che gli sono arrivati attingendo alle immense riserve in valuta estera della Cina. 480 miliardi possono investire. Intanto il Giappone, dopo il piano da 170 miliardi di dollari per rilanciare l'economia, l'ha detto la banca centrale giapponese, che continuerà a perseguire una politica aggressiva di allentamento monetario, visto che l'export continua a calare e anche la produzione industriale, e l'economia giapponese resta debole. No, faccio notare che le due principali economie del pianeta, quella americana e quella giapponese, lasciamo stare in questo caso la Cina, le loro banche centrali hanno detto che continueranno in queste politiche espansive, cioè di stimolo della crescita. Lo dico perché, visto che adesso parleremo di Germania, quello che fa la BCE è anche poco nonostante i mal di pancia tedeschi, rispetto a quello che fanno i corrispettivi americano e giapponese. No, dico, se vogliamo continuare a essere il vaso di coccio, andiamo avanti così. Nel frattempo il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, davanti alla plenaria di Strasburgo, ha detto: nel 2012 abbiamo fatto molti passi in avanti, gli investitori stanno tornando, la competitività migliora, ma non è il momento per compiacersi, la crisi non è ancora stata superata. Not all problems can be solved. Not all files can be closed. Non tutti i problemi possono essere risolti, non tutti i dossier sono stati evasi. Tuttavia, tanto è stato fatto nel 2012 e per questo è stato un anno cruciale. La crisi ha colpito i paesi dell'area euro, i quali hanno compiuto importanti progressi nelle finanze pubbliche e nel risolvere problemi strutturali. Lo hanno fatto con determinazione e assistiti in ogni momento dalle istituzioni europee. Sottolineo che questo processo deve continuare. I mercati finanziari, sempre scettici, hanno riconosciuto questi sforzi. Gli investitori privati stanno tornando verso i paesi della zona euro. La competitività sta migliorando, così come le finanze pubbliche, lentamente, ma sta succedendo. Abbiamo salvaguardato l'integrità della zona euro e fermato i timori che hanno aleggiato su di noi per diverso tempo. Ma dobbiamo assolutamente evitare di compiacerci, perché la disoccupazione resta molto elevata e la crisi non è ancora superata. Dobbiamo ancora affrontare la crisi, che è diventata una crisi sociale molto profonda in alcuni paesi. Abbiamo però voltato pagina e siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo della ripresa. Così appunto Barroso. Per quello che riguarda invece altre notizie, in breve, sempre sul fronte europeo, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha risposto al, lo ha ricordato anche il nostro GR, alla proposta avanzata da Silvio Berlusconi sull'ipotesi di un Mario Draghi alla presidenza della Repubblica Italiana. Ha detto in mandato, ha risposto ufficialmente. Chiaramente la stessa BCE, il mandato del presidente della BCE Mario Draghi dura 8 anni e quindi fino al 31 ottobre 2019 è il presidente determinato a portare a termine il mandato. Magari uno prima di fare una proposta può anche chiedere a Draghi cosa ne pensa, giusto per sapere se ha voglia di fare il presidente della Repubblica Italiana o di continuare a fare egregiamente, a mio avviso, il presidente della Banca Centrale Europea. Lo spread, intanto, qui veniamo all'Italia, è di nuovo sopra i 270 punti base, 271, il tasso, il BTP a 10 anni rende il 4,20%. E poi, sempre sul fronte dell'economia italiana, potremmo dire con una battuta amara che piove sul bagnato. Perché? Perché non solo abbiamo consumi in continuo calo per le difficoltà economiche delle famiglie, ce ne stiamo occupando da settimane, da mesi, ma l'inflazione a dicembre ha frenato complessivamente, e questa è una buona notizia, il 2,3% la crescita dei prezzi al consumo è ai minimi da gennaio 2011. E ripeto, questa è una buona notizia, almeno l'inflazione non è un problema, non se ne deve preoccupare nessuno, neanche i tedeschi. Però, perché dico che c'è un però, l'inflazione relativa, quindi la crescita dei prezzi al consumo relativa ai beni più comprati, che finalmente da un paio d'anni l'Istat ci dà dopo tutte le polemiche nel passaggio lira-euro, e beh, quella lì invece ha fatto un balzo. E allora, sapete, a me interessa poco che l'inflazione, l'aumento dei prezzi delle auto, dei beni durevoli che compri una volta ogni qualche anno, salga poco, perché se poi vedo che l'inflazione dei beni, quelli di acquisto quotidiano o mensile o settimanale, è alta, mi preoccupo. E su quella poi che uno misura il carrello della spesa, abbiate pazienza, e anche il portafoglio a fine mese, quella è salita al 4,3%. È il record dal 2008 sui prodotti acquistati, appunto, con maggiore frequenza. (Ride) 349 238 6666 per i vostri SMS e poi anche Facebook. Passiamo al primo tema. Vedo anche molti messaggi di genitori di bambini disabili. Sì, guardate, stiamo dedicando un'intera settimana a questo, ve lo dico perché è un'idea ed è un'iniziativa che Radio 24 ha voluto fortemente, sia il direttore, sia Gianluca Nicoletti, sia chi vi parla, insomma, è un'iniziativa corale della radio, noi daremo un taglio proprio sui finanziamenti, su quello che sono le politiche di welfare, cercando di capire cosa non stia funzionando. La prima cosa che non funziona sono i tagli, perché siamo passati da 2 miliardi e mezzo per le politiche sociali nel 2008 a 200 milioni nel 2012, finanziaria del 2011 di Giulio Tremonti. 200 milioni vuol dire il 92% di tagli, per le politiche sociali, che includono anche i malati di sclerosi multipla, quelli che andarono di fronte al Parlamento con le carrozzine, perché anche nell'ultima finanziaria, governo Monti in questo caso, non governo Berlusconi, erano previsti 200 milioni, poi dopo le proteste sono saliti a 600 milioni, che è meglio che niente, ma siamo ancora un terzo di quanto, anzi meno di un terzo di quanto non venisse destinato nel 2008. Allora c'è un problema di risorse, ma c'è un problema chiaro e sicuro. C'è anche un problema però di come queste risorse vengono utilizzate. Ascolteremo più avanti le varie categorie che lavorano con le disabilità, ma vi anticipo che un punto fondamentale è la richiesta di avere meno aiuti diretti, più che a pioggia, a goccia, visto che sono così pochi, e più agevolazioni fiscali. C'è tutto un mondo del sociale fatto di cooperative, di persone che si mettono assieme, che chiede non di avere l'aiuto o l'aiutino, ma di avere una fiscalità di vantaggio, pagare meno l'IVA, avere un'IRPEF agevolata, avere la detassazione sugli investimenti, magari anche di carattere immobiliare, perché questo poi genera percorsi virtuosi e converrebbe anche allo Stato, perché poi quando una cooperativa lavora bene, per quanto con agevolazioni fiscali al fisco qualcosa ritorna e sostituisce lo Stato in molte cose. Quindi meno soldi, intanto più soldi, e poi meno diretti e più come agevolazioni. Rendete più facile per chi si sostituisce allo Stato lavorare, non caricatele dello stesso onere, in particolar modo fiscale, di cui già caricate tutte le altre categorie produttive di questo paese, quelle perlomeno che pagano le tasse. Adesso vi assicuro che non c'è nessun compiacimento in quello che sto per leggere, ma semplicemente verrebbe voglia fortissima di dire: ve l'avevamo detto. Ve l'avevamo detto che la Germania non poteva continuare a essere un'isola felice mentre il resto dell'Europa si fermava, mentre la Grecia veniva messa in povertà, il Portogallo giù di lì, la Spagna fermava ogni consumo e obbligava la Croce Rossa a occuparsi anche dei bambini spagnoli, e l'Italia, diciamo, conosce il calo più forte nei consumi dal secondo dopoguerra. Ve l'avevamo detto, cari concittadini europei tedeschi, che nessun uomo è un'isola, come direbbe John Donne, e nessun paese è un'isola, soprattutto se tutti abbiamo l'euro. E invece così è successo, perché tagli, tasse, con deficit, debito, tutto bene, dobbiamo essere noi i più virtuosi al mondo in Europa. La conseguenza la vede anche la Germania. Nel 2011 la crescita economica era stata del 3%, nel 2012 si ferma allo 0,7%. E ancora, negli ultimi tre mesi, cioè il periodo in cui poi si entra nel 2013, la frenata della cosiddetta locomotiva tedesca è stata brusca, meno 0,5%, quindi è entrata nel 2013 in frenata. Le esportazioni tengono anche in Germania, più 4%, i consumi delle famiglie così e così, siamo a un livello quasi di stagnazione, più 0,8%, la spesa pubblica la Germania la può fare, più 1%, gli investimenti delle imprese meno 4,4%, e anche le costruzioni in Germania fanno meno 1,1%. Tant'è che il governo adesso si attende per il 2013 una non crescita, uno 0,4% e stagnazione per l'anno che è appena iniziato. Certo, l'inflazione è scesa dal 2,3% al 2%, e quindi sarà contenta la Bundesbank e tranquillizzati i tedeschi sull'inflazione, e il bilancio dello Stato è tornato in attivo dopo 5 anni. Hanno incassato il governo federale, i Länder, 2 miliardi e mezzo di euro in più di quanto hanno speso, un attivo sul PIL dello 0,1%. E poi tutti i vantaggi che la Germania ha avuto dall'essere il paese più virtuoso. Gli risparmiatori che preferiscono comprare i Bund anche se hanno rendimenti negativi, piuttosto, ricorderete mesi fa, piuttosto che investirli da altre parti. E poi c'è una notizia interessante, perché la riporta del quotidiano economico tedesco Handelsblatt: la Bundesbank, la banca centrale tedesca, si appresta a rimpatriare una parte dei propri depositi di oro custoditi all'estero. Nel frattempo Air Berlin, la compagnia aerea, appunto, taglia 900 posti di lavoro, la terza compagnia low cost in Europa. A pesare negativamente sta contribuendo anche il clamoroso flop del futuro aeroporto di Berlino Willy Brandt, la cui apertura è stata rimandata per la quarta volta e a data da definire. Professor Alberto Krall, germanista, docente di lingua tedesca alla Cattolica di Milano, è autore di un libro in realtà molto economico, a cavallo tra economia e politica, Primi della classe con la K, Cairo Editore, buonasera. Buonasera. La sentiamo leggermente basso, alziamo un po' il volume. Allora, al di là dell'analisi di carattere, diciamo, congiunturale economico, io l'ho spiegata, ma se lei ha altri elementi, se frenano tutte le principali economie dove la Germania esporta, è difficile che l'economia tedesca riesca a sostituire Francia e Italia con la Cina, non ancora perlomeno. Adesso no, sicuramente, perché il 60% delle esportazioni tedesche avviene nell'area euro, nell'Unione Europea. E quindi necessariamente è chiaro che il mercato tedesco e l'economia tedesca è fortemente legata allo sviluppo delle domande di questi paesi. Se le domande di questi paesi calano, evidentemente i riflessi poi ci sono. Ma io direi che questo è anche un fattore positivo, nel senso che l'opinione pubblica tedesca lentamente si deve rendere conto che è strettamente connessa allo sviluppo degli altri paesi, quindi conseguentemente ne deve tirare poi le conseguenze. Perché una cosa interessante è stata questa: una recente intervista che è stata fatta dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung a Wolfgang Schäuble, il Falco, suonava così. La domanda dice: ma come mai la gente non scende in piazza per protestare contro le sovvenzioni che vengono fatte ai paesi cosiddetti spendaccioni? E la risposta è stata questa, cioè anche i tedeschi si stanno rendendo conto che i vantaggi che traggono dal mercato comune europeo, quindi dall'appartenenza all'Unione Europea, sono decisamente superiori agli svantaggi di un'uscita dalla Germania dall'area euro. È vero, è verissimo. Anche noi abbiamo notato modestamente che lo stesso Schäuble, considerato il falco, il ministro delle finanze più duro con i paesi dell'olio, i paesi dell'area mediterranea, ha cambiato repentinamente rotta verso settembre-ottobre, dicendo: beh, attenzione, la Germania ha dei vantaggi. L'ho detto anche Angela Merkel recentemente: ha dei vantaggi grossi, non sta nell'euro, non vogliamo che la Grecia esca. Insomma, tutto un ammorbidimento. Questo, secondo lei, visto che era alla base del suo libro, renderà la Germania più europeista e il resto d'Europa meno antitedesco? Innanzitutto ha una classe politica, una classe dirigente che è sicuramente consapevole del ruolo che l'Europa ha per il futuro della Germania, ed è decisamente anche più responsabile se per esempio va confrontata con quella italiana. Bene, no, adesso, il benchmark non è dei migliori, professore, non ci vuole molto, comunque prego. Ho capito, però insomma va anche detto, perché se assistiamo al dibattito adesso della campagna elettorale capisci che è una cosa disarmante. Detto questo, il paese, appunto, questa classe dirigente qua ha a che fare con un'opinione pubblica che è fortemente contraria all'indebitamento dei paesi del sud Europa. E questo indebitamento viene imputato ad una colpevolezza di fatto, che fondamentalmente è una colpevolezza di tipo culturale e anche morale, oltre che etico, di paesi che tendenzialmente sono spendaccioni. Questo è il rimprovero. Ed in tutto questo vi è tutta una presa di posizione, per così dire, anche culturale, che fa riferimento al luteranesimo e quindi all'atteggiamento protestante. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa, però professor Alberto Crali, dopo le elezioni, vista la frenata dell'economia tedesca, che c'è, non è drammatica, ma meno 0,5% il PIL nell'ultimo trimestre, un 2013 che non andrà oltre lo 0,4% di crescita, quindi stagnazione, secondo lei Angela Merkel, che è data come probabile vincitrice, farà politiche meno popolari e meno, diciamo, elettorali, ma più, a mio avviso, razionali per la casa europea? Beh, su questo senz'altro, nel senso che ormai l'indirizzo è chiaro. Il problema è sempre stato quello di Angela Merkel di coniugare questa sua tendenza lenta e progressiva verso una definizione di una struttura politica europea che desse continuità e soprattutto rassicurasse dal punto di vista dell'inaffidabilità di alcuni partner, e quindi in questo modo qua è coniugarla con appunto i dubbi e le incertezze e anche qualche volta le chiare avversioni del suo elettorato contro i paesi cosiddetti spendaccioni. Il punto è questo, è che nessun politico tedesco finora ha detto a chiare lettere ai propri elettori quella che è la verità sacrosanta, cioè che la Germania ha potuto emanciparsi dal punto di vista dello sviluppo delle sue strutture produttive in ragione del fatto che vi erano paesi spendaccioni che acquistavano i loro prodotti. Perché se l'Europa dal 2003 in avanti fosse creduta tutta in recessione, nel senso che tutti avessero fatto delle politiche di risparmio e restrittive come sono state fatte con quelle dell'agenda di Schröder, della cosiddetta agenda 2010, evidentemente l'industria tedesca non sarebbe stata nella condizione di collocare i suoi prodotti presso gli altri paesi europei, che i quali avrebbero avuto un calo di domanda e quindi non sarebbero stati in grado di acquistare. Questo è un chiaro vantaggio che si è creato, e quindi i cosiddetti paesi cicale sono stati funzionali allo sviluppo e all'esplosione poi successiva dell'economia tedesca e della sua industria. Questa è una verità che nessuno ha avuto il coraggio di dire attualmente in Germania, e prima o poi andrà detta, perché è inevitabile che il futuro tedesco passa attraverso l'Europa. Il punto è questo, bisogna che però quei paesi cosiddetti spendaccioni dimostrino di essere in grado di assumersi la responsabilità e quindi di una gestione della cosa pubblica che sia appunto responsabile e che quindi contribuisca alla stabilità complessiva dell'Europa. Questo è il presupposto fondamentale. Allora, due precisazioni. No, capisco e apprezzo anche la sua analisi. Se noi non avessimo comprato, lo dico con una battuta, Mercedes e BMW, macchinari tedeschi, Siemens e quant'altro, se la Grecia non si fosse indebitata a comprare i sommergibili senza i siluri e via così, la Germania col cavolo che continuava con la politica di austerità che ha fatto Schröder riusciva a riprendersi. Il che però mi faccia dire, Crali, non vuol dire che noi dobbiamo continuare a fare le cicale, ci mancherebbe, né che non si possa risparmiare sulla spesa pubblica nostra. Un'altra precisazione la voglio dare a ragione l'ascoltatrice che scrive: basta parlare di paesi spendaccioni e che vivono al di sopra delle loro possibilità. Queste accuse andrebbero girate alla classe politica che ci ha governato. È vero, magari l'italiano in sé ha speso meno, ma è la classe politica che, diciamo, non ha avuto l'accortezza, per essere buoni, di mettere sotto controllo l'andamento del deficit e del debito. Qua capisce, noi la situazione italiana è molto semplice: o gli italiani sono in grado di assumersi la responsabilità di una gestione di bilancio oculata e quindi responsabile, oppure sarà l'emergenza che li governerà. Questa è la situazione, altrimenti la terza alternativa è pure di uscire dall'euro. Allora bisogna vedere chi si assumerà di queste responsabilità, perché l'uscita dall'euro chiaramente è una situazione che comporta, nessuno dimentica il fatto che a novembre del 2011 noi eravamo in una situazione in cui lo Stato praticamente non aveva più quasi la disponibilità di pagare. Io non me lo dimentico, eravamo in diretta qui a vedere i BTP a 10 anni rendere meno dei BTP a 5 anni, dei bot a 5 anni, la curva si era invertita, tanto poche erano le possibilità date all'Italia sul suo debito, è una cosa assolutamente anomala, io non lo dimentico. Detto questo, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che vota, ma ci mancherebbe. Però, diciamo, mi interessava restare sulla Germania, e ha fatto bene a far notare che comunque un certo aiuto i paesi dalla spesa facile l'hanno data anche ai tedeschi. Ma tant'è, grazie ad Alberto Crali, germanista che insegna appunto alla Cattolica di Milano e autore del libro Primi della classe, con la K, proprio sulla Germania e sul rapporto non difficile, dialettico, diciamo così, della Germania con l'Europa e dell'Europa con la Germania. Adesso però c'è la borsa. Più 0,44% Milano, la migliore di nuovo oggi, visto che ieri non lo era stata. Meno 0,30% Parigi, meno 0,70% Francoforte. Invariata Londra, meno 0,13% l'America. Male Mediaset, meno 3,33%. Ansaldo, meno 2% come Telecom e Azimut. L'1,5% lo perde Exor e Mediolanum. L'1,30% il calo di Fiat. Di Fiat parleremo tra pochissimo. Nuove dichiarazioni oggi di Sergio Marchionne. E mentre Salvatore Ferragamo più 3,40, Snam più 2,70 come Ubibanca, Monte dei Paschi più 2,30, Intesa San Paolo più 1,5 come Luxottica. Il commento come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Lasciamo stare Fiat, Mediaset da una parte e Ferragamo dall'altra. Mediaset ha accusato una flessione di oltre il 3%, d'altra parte ricordiamo che viene da una corsa sfrenata, infatti dai minimi toccati a novembre dopo la pubblicazione della trimestrale in rosso le azioni hanno recuperato oltre il 50% del proprio valore, mentre dal 10 dicembre, ovvero dopo l'annuncio del ritorno sulla scena politica di Silvio Berlusconi, hanno registrato comunque un progresso oggi nonostante il calo superiore al 30%, attorno al 34%. Il pretesto per prendere profitto è stata l'indiscrezione secondo la quale è stato congelato il progetto di trovare un partner per la Pay TV Premium. Indiscrezione questa che è stata giudicata criticamente dalla borsa, in quanto una joint venture sarebbe la miglior soluzione per una divisione che è in perdita. Gli analisti stimano che anche nel 2012 tale divisione abbia perso attorno ai 100 milioni di euro. Tutto è da vedere, comunque si è trattato più che altro di una presa di beneficio dopo appunto la corsa certo. Di cui abbiamo parlato. Ferragamo. Ferragamo invece più 3,39%, ormai le azioni stanno a più del doppio rispetto alla quotazione che è avvenuta nel giugno 2011, stanno a 19,24 euro, erano state quotate a 9 euro. E perché la corsa? Michele Norsa, l'amministratore delegato della casa, a margine della sfilata per la presentazione delle collezioni sì. Uomo, ha detto che il trend sulle vendite anche a dicembre è stato positivo, inoltre dalle pagine del Financial Times quest'oggi ha preannunciato un rialzo dei prezzi in Europa, questo sulla scia peraltro di quello che stanno facendo tutte le case del lusso. Sì, devo dire che anche Barbaris ha annunciato vendite al rialzo del 9%, segno che, come ripetiamo da mesi e settimane, il lusso tira poco qua, niente qui, molto nelle economie dei nuovi ricchi mondiali, e quindi Indonesia, Brasile, Sudafrica, Cina, India. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e dopo esserci occupati quindi della Germania che vede, lo ricordo perché si fosse appena messo in collegamento, vede una crescita nel 2012 più modesta delle attese, uno 0,7% contro il 3% del 2011 e soprattutto una frenata meno 0,5% negli ultimi tre mesi del 2012, e aver anche raccontato le dichiarazioni di Sergio Marchionne da Detroit, la Cassa Integrazione Amalfi, ma anche la dichiarazione appunto che non vi saranno altre chiusure di stabilimenti Fiat in Italia. Come annunciato, anche questo programma partecipa, come giusto, alla settimana che Radio 24 dedica al sociale. Sapete che da lunedì fino a venerdì avremo una programmazione speciale dedicata ai soggetti più deboli. Sociale vuol dire tante cose, ma parleremo di disabilità, di aiuti per i non autosufficienti, di stanziamenti e di risorse. Il taglio che questo programma dà, come immaginabile, è di carattere anche economico, e però cerchiamo di tenere insieme anche temi di queste ultime settimane, ahimè, e mesi, e quindi una difficoltà sempre più forte delle famiglie nei consumi, ne stiamo parlando da giorni, né il reddito disponibile né il potere d'acquisto. Ecco, di fronte a questo si pongono a mio avviso due problemi. Uno diretto, e cioè intere fasce della popolazione rischiano di essere cacciate se già non sono state sotto la soglia o vicino alla soglia della povertà. Penso ai pensionati con pensioni basse, bassissime, penso anche a malati o persone che perdono il lavoro senza avere tutele di nessun tipo di welfare. Dall'altra parte c'è poi il tema più specifico delle disabilità in senso stretto, e quindi le risorse per i disabili, per chi vive già una sfortuna nella vita, e anche per i loro familiari, perché sappiamo tutti che la disabilità di un familiare, che sia anziano, che sia un bambino, poi porta con sé anche tutto un insieme di costi e di spese. Chiaramente non è questo il primo dramma, ma è inutile aggiungere un dramma a un dramma, diciamo così. Un insieme di costi e spese che in uno Stato con il prelievo fiscale che ha quello italiano dovrebbero essere, lasciatemelo dire, a carico prevalentemente dello Stato se uno ha un reddito basso. In realtà non è così, abbiamo un'altissima tassazione, e questo lo sappiamo per chi le tasse le paga, e però abbiamo servizi di welfare che nel caso delle politiche sociali e anche la disabilità continua a erodersi, cioè le risorse sono sempre, sempre meno. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Eh sì, gli eroi di cui parliamo questa volta non sono gli imprenditori che abbiamo raccontato che cercano di andare avanti nonostante tutto, sono quelle famiglie in cui c'è un membro che è affetto da disabilità. L'Istat stima in circa 3 milioni, il 4,8% della popolazione, le persone affette da disabilità, ma la stessa Istat dice, attenzione, abbiamo difficoltà a stimare soprattutto per quanto riguarda le malattie mentali, perché il confine è molto labile, spesso non entrano. Allora, di fronte a questo, vediamo come si è mossa la politica, perché tra poco si vota, tante belle dichiarazioni, è già ripartito il battibecco, le accuse reciproche. Noi vorremmo stare, ve l'ho promesso, in tutte queste settimane elettorali sui fatti, sulle cifre, sui numeri concreti, sul paese reale. Allora, 2 miliardi e mezzo di euro erano stanziati nel 2008 per le politiche sociali, sono diventati 1 miliardo e mezzo nel 2010. No, questo lo dico perché non vorrei sentire le solite campagne elettorali, faremo di più per chi ha meno. Ecco, intanto vediamo di vedere che cosa avete fatto quando governavate. Dicevo, 2 miliardi e mezzo nel 2008, che erano già diventati 1 miliardo e 4 nel 2010, scesi con la finanziaria del 2011 a 200 milioni, e poi con un taglio in 4 anni del 92%. Adesso non me ne frega nulla della campagna elettorale, questo vuol dire che i 2 miliardi e mezzo ereditati dal governo Prodi sono diventati con il governo Berlusconi prima 1 miliardo e 4, poi 200 milioni, questo alla luce delle manovre finanziarie. Ha fatto bene, ha fatto male, era giusto destinare le risorse per altri motivi, era ministro dell'economia Giulio Tremonti. Non mi interessa, queste sono le cifre. Meno 92%. L'ultima finanziaria, quella del governo Monti, di cui stiamo parlando, suscitò molte polemiche all'inizio, lo ricorderete, perché in origine la dotazione del fondo per le politiche sociali era di appena 200 milioni, come quella dell'ultima finanziaria dell'ultimo governo Berlusconi. Polemiche, proteste, anche perché anche e soprattutto dei malati di sclerosi laterale e quindi di sclerosi multipla, il fondo viene aumentato e viene portato a 600 milioni, quindi possiamo dire che per la prima volta, sebbene molto al di sotto dei 2 miliardi e mezzo del 2008, il fondo è tornato a crescere. Di questi 600 milioni, la metà sono destinati al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che finanzia vari tipi di progetti e forme di assistenza, l'altra metà, quasi 275 milioni, è stata attribuita al fondo per la non autosufficienza, che include anche i fondi per i malati di sclerosi. potrebbero forse aggiungersi altri 40 milioni che dovrebbero arrivare dai controlli sulle pensioni di invalidità, e ce lo auguriamo. Risolta per ora il caos derivato dalla circolare sugli invalidi. L'INPS per fortuna ha ritirato le disposizioni sugli invalidi, praticamente insomma per aver diritto alla pensione agli invalidi al 100% avrebbero dovuto fare riferimento non più solo al reddito personale ma anche a quello del coniuge. Così voleva dire cancellare l'assegno a decine di migliaia di persone su 85.000 in tutto. Cerchiamo di capire perché un paese moderno con un'alta tassazione fiscale e in cui i politici si riempiono la bocca di welfare sceglie di investire sempre meno non solo nella scuola, non solo nella detassazione, diciamo, delle buste paga e quindi di quello che è il potere d'acquisto delle famiglie, ma anche sulle disabilità. Il tutto in un periodo in cui le famiglie hanno difficoltà a fare la spesa, lo dico senza populismo, ce lo raccontano tutti in queste settimane, Istat, Confcommercio, gli amministratori delegati che intervistiamo. E allora grazie al professor Stefano Zamagni, che insegna economia politica all'Università di Bologna e alla Bocconi di Milano, uno dei massimi esperti a livello italiano di welfare. Buonasera professore. Buonasera. Grazie anche a Claudia Fiaschi, che è presidente di CGM, che è la più grande rete di cooperative sociali in Italia, asili nido, assistenza anziani, ai minori, ai disabili fisici e psichici, e si prende cura delle categorie fragili in genere. Avete inserito nel lavoro 4.300 persone svantaggiate, no? Grazie anche a Claudia Fiaschi. Buonasera. E grazie anche al direttore dell'agenzia giornalistica Redattore Sociale, Stefano Trasatti, che ci ha dato una mano in questi giorni a organizzare anche la settimana del sociale di Radio 24. Buonasera anche a te, Stefano. Buonasera. Allora, Zamagni, inquadriamo il tema una battuta prima e poi il traffico. Come mai, lasciamo stare, ho capito che le risorse sono poche, ma come mai si sceglie, diciamo, in questi anni continuamente di tagliare sempre sulle disabilità, aumentando quindi quello che poi è il carico di spesa per le famiglie, soprattutto quello meno abbienti? La risposta è semplice, anche se drammatica, ed è che l'impianto teorico, filosofico del welfare state è il contrattualismo sociale, l'idea cioè del contratto sociale. Il contratto sociale postula la negoziabilità. Come tutti sanno o dovrebbero sapere, nel contratto sociale partecipano coloro i quali sono in grado di negoziare. Se allora un soggetto, una categoria che è tipicamente quella dei disabili, non è in grado di negoziare e non ha nessuno che in forma di tutoraggio si prende cura dei suoi interessi, è ovvio che nella ripartizione delle risorse destinate alla spesa sociale a queste categorie di soggetti non arrivi ultimo. Ecco perché, se non vogliamo fare gli strappalacrime, i retorici, eccetera, bisogna cambiare l'impianto, perché bisogna sostituire al principio di negoziabilità il principio di vulnerabilità, altrimenti non ne verremo fuori, perché quelli che hanno tagliato non è che siano più cattivi di altri, non è che siano diventati perversi, è che la logica del welfare state è quella della negoziabilità, per cui quando a Roma si trovano nei diversi tavoli i rappresentanti delle diverse classi di stakeholders, se gli handicappati, i disabili, eccetera, non hanno qualcuno, qualche anima bella, come si sarebbe detto in altri tempi, che tutela, ma tutela con capacità argomentativa i loro interessi, questi vengono lasciati a loro. Però la prova lampante l'abbiamo avuta a proposito dei disabili affetti dalla SLA, i quali sono andati sotto Palazzo Chigi in carrozzella e alla fine qualcosina appunto hanno ottenuto. Cioè a dire, in quel momento, questo è un caso che entrerà nei libri del prossimo futuro, i portatori di disabilità, avendo capito quello che ho cercato di dire poc'anzi, hanno detto: vogliamo tutelare i nostri interessi da soli, portateci in piazza con le nostre carrozzine e cercheremo di farci giustizia da soli. Ma è ovvio che questo non può essere esteso ad altre categorie di soggetti, ma soprattutto non è un modo che io ritengo civile di affrontare, certo, il tema della spesa sociale. Beh, insomma, è un bel punto quello che lei pone, Zamagni, cioè si è andati a tagliare il sociale non perché quel governo o quell'altro governo avesse chissà quale tipo di pregiudizio, ma perché quando vai a contrattare le risorse disponibili, le categorie rappresentate, sindacati, Confagricoltura, Confindustria, Confesercenti, Codiretti, quello che volete voi, Rete Imprese per Italia, hanno un loro potere contrattuale, come è giusto che sia. Il mondo delle disabilità, parcellizzato, frammentato, in alcuni casi anche con le disabilità psichiche gravi, difficilmente rappresentabile, non ha chi vada a trattare, a contrattare, a fare la controparte, ed ecco che arrivi ultimo e ti becchi, tra virgolette, forzo io l'analisi, le briciole. Vorrei sentire anche l'opinione di Trasatti e di Fiaschi. Allora, Stefano Trasatti, Zamagni dice i tagli sono arrivati al di là delle esigenze di bilancio, al di là del di come uno lo possa pensare, non perché c'è stato un incattivirsi, ma perché il mondo delle disabilità, in senso lato, è un mondo che non ha rappresentanza, non ha i suoi sindacati, non ha le sue associazioni di categorie, potremmo dire, usando una forzatura. È vero, è verissimo. Io però vorrei aggiungere un altro elemento per dire perché succede tutto questo, e cioè l'anomalia grandissima del welfare italiano, che è un welfare basato quasi esclusivamente su erogazioni monetarie, tante, molto piccole, insufficienti, perché sono integrative al reddito, che come hai detto è sempre in calo drammatico, delle famiglie. E questa è la grande anomalia, tante erogazioni e pochissimi servizi. Vorrei citare un altro dato che viene da una ricerca recente del Censis proprio sulla disabilità. L'Italia è un po' sotto la media europea, non in modo vergognoso, nella spesa per la disabilità, 438 euro pro capite contro 531 euro di media, quindi insomma siamo lì. Il problema è che l'Italia è invece ultimissima per quota di questa spesa destinata ai servizi, cioè significa che il 90 e passa per cento di questa spesa viene erogata con le indennità, l'accompagnamento, insomma tutte le cose che sappiamo. Non ci sono servizi, ecco perché la famiglia, nel momento in cui gli manca il proprio patrimonio, si trova da sola, si trova che se esce non ha servizi, non ha persone che vengono in casa, non ha centri, non ha trasporti, non ha nulla, non ha sollievo soprattutto. Vorrei anche sottolineare, rispetto ai dati che dicevi prima, dei fondi sociali, no? Quei 2 miliardi sì. E mezzo di partenza del 2008 ridotti a 200 nel 2012, adesso diventati di nuovo poco meno di 600 milioni. Bene, noi stiamo parlando dello 0,4%, o meglio, adesso dello 0,1%, allora stiamo parlando dello 0,4% di tutta la spesa per la protezione sociale che viene fatta in Italia, cioè i 400 miliardi che vengono spesi per la protezione delle persone, i quali miliardi se ne vanno per il 60% per la previdenza, per il 25% per la sanità, e l'8% per tutti questi problemi. Però di questo 8%, come abbiamo visto, quasi tutto viene speso per queste erogazioni. Quindi ecco perché nel momento in cui si va a tagliare o ad aggiungere, noi sfioriamo appena il problema. Un'ultima certo. cosa vorrei anche aggiungere, se posso, sì. ed è questo. Non ho capito perché tutti i problemi della disabilità, quelli più gravi, soprattutto questi dei malati di SLA che hanno manifestato, e ricordo che non è che sono solo andati con le carrozzine sotto il palazzo, ma hanno anche minacciato di spegnere il respiratore, cioè di uccidersi, cioè sono dovuti sì. arrivare a questo. Queste categorie sono state classificate nella voce sociale. Ecco, non ho capito perché la SLA deve rientrare sotto il sociale e non nel sanitario. Cioè c'è una divisione enorme sì, certo. in Italia tra tutta la spesa sanitaria e quella per il sociale, come sappiamo lo squilibrio è enorme, però insomma lì ci sono problemi che sono prima di tutto allora, sanitari. Claudia Fiaschi, voi fate sostanzialmente sussidiarietà, cioè con una rete di cooperative sociali offrite servizi di welfare. Ma se io dicessi che se tutte le tasse che io pago venissero ben utilizzate, voi non dovreste esistere? Ma non so se sarebbe una scelta saggia, nel senso che le cose che hanno detto prima sia Zamagni che tra l'altro sono più che vere, senza che il nostro sistema è di fatto completamente finanziato. Di fatto mancano 6-8 miliardi per gestire un 6-8 miliardi mancano e vengono trovati attraverso l'attività di volontariato e comunque di cooperative sociali, no? Beh, non so se proprio vengono trovati. Diciamo che se volessimo dotarci di un sistema, anche questo è quello che manca. E credo che uno dei pezzi che manca è la capacità di usare meglio quello che l'Italia ha e che altri paesi non hanno, cioè che è proprio un modello di produzione di questi beni comuni del welfare, che è quello che le cooperative sociali e che l'economia sociale italiana sta sperimentando da anni, che consente proprio di meccanismi generativi. Noi abbiamo fatto alcune riflessioni che hanno anche dimostrato come la fiscalità generata dall'attività di impresa dell'economia sociale sia in grado di autofinanziare lo sviluppo del sistema di welfare proprio attraverso la propria attività. E quindi forse una riflessione in più andrebbe... Cioè voi, adesso posso forzare un po' il concetto, voi dite non solo noi sopperiamo al welfare mancante, ma siamo anche in grado di autofinanziarci, cioè di essere fiscalmente virtuosi? Noi abbiamo fatto delle simulazioni fiscali, per esempio, sul settore dei servizi per l'infanzia, ma questo ragionamento potrebbe essere esteso. Abbiamo visto che un servizio per l'infanzia genera fiscalità da attività di impresa che, se le risorse pubbliche fossero usate in meccanismi non, diciamo, rubinetto, ma come leva per mettere in moto azioni virtuose, quindi la compartecipazione... Cioè incentivi fiscali più che... soldi tra virgolette a pioggia o a goccia, visto l'ammontare, lei dice incentivi fiscali che permettono di dare che appunto un effetto volano della comunità di fare la loro parte, alle imprese sociali di fare per esempio gli investimenti nei servizi, alle imprese di compartecipare al costo attraverso per esempio la detassazione dei voucher, e alle famiglie anche e quindi alle persone, al cittadino ultimo, di avere integrazione in base alle loro necessità effettive, quindi in termini sia di priorità d'accesso che in termini di compartecipazione economica, probabilmente il nostro sistema di welfare si sosterrebbe un po' meglio. E qui siamo, sì, e qui siamo già alle proposte. Io ho ancora un paio di minuti, vi chiedo in una battuta flash, lei dice più che soldi diretti o solo soldi diretti, dateci incentivi e agevolazioni fiscali per far partire un insieme di attività che poi hanno un percorso virtuoso, non solo sostituiscono lo Stato ma generano anche fiscalmente dei vantaggi. Vorrei sapere che cosa chiedereste se io fossi il prossimo Presidente del Consiglio, però in 30 secondi, sul fronte del sociale. Zamagni. Cambierei l'impostazione dalla dicotomia pubblico-privato alla tricotomia pubblico-privato-civile. In Italia ci ostiniamo a non riconoscere che accanto al pubblico e al privato c'è il civile, espressione della società civile. Dunque, bisogna subito cambiare il libro primo, titolo secondo del codice civile. Molti lo so che pensano che non sia importante, ma ho motivo di ritenere che non capiscono la natura del problema. Quello è il punto di partenza. Secondo, legiferare intorno al 5 per 1000, rendendo il 5 per 1000 una legge ordinaria. Terzo, bisogna creare per il cosiddetto terzo settore un'autorità garante per il terzo settore, un'autorità garante, non basta un'agenzia, perché abbiamo visto che dopo la chiusura dell'agenzia per le ONLUS c'è tanti pasticci di cui soffriremo ancora a venire sono nati. Quarto, bisogna aprire le porte del credito a quelle forme di impresa che noi chiamiamo imprese sociali e che comprendono le cooperative sociali, le imprese sociali in senso stretto e le cosiddette cooperative di comunità. Grazie, però chiedo a Trasatti e a Fiaschi di essere ancora più brevi perché siamo fuori tempo massimo. Trasatti, una proposta al futuro Presidente del Consiglio. Allora, una proposta immediata è ripristinare intanto questi fondi, perché il taglio ha fatto chiudere dei servizi per le povertà estreme, per le situazioni estreme, quindi è una cosa che si può fare, i soldi non sono poi così tanti. Più nel lungo termine, come dicevo, è cercare di invertire questa grande anomalia, cioè più servizi e meno erogazioni. E meno soldi diretti. Poi alla fine. Claudia Fiaschi? Intanto ripristinare un ragionamento sui diritti esigibili, su che siamo uguali e su che cosa ci impegniamo a essere solidali, anche fiscalmente, spostare almeno all'1% del PIL di risorse per welfare e valorizzare l'economia sociale come modello di produzione dei beni comuni con l'impresa non profit, ma aggiungendo in Italia anche un po' di low profit e quindi aiutando le imprese e i potenziali investitori ad investire nella produzione dei beni comuni. Beh, grazie a tutti e in bocca al lupo a voi e soprattutto grosso augurio a tutte le famiglie e i portatori di disabilità. Mi sembra che poi, andando nel concreto, i consigli ci siano. Meno soldi a pioggia diretti, cioè aumentare le dotazioni, la spesa complessiva, ma non solo con soldi a pioggia diretti, dando agevolazioni fiscali, riconoscendo il ruolo appunto del civile, aiutando chi già sta aiutando disabili e persone comunque afflitte da quelle che vengono chiamate genericamente debolezze sociali. Grazie e quindi a Stefano Zamagni, a Claudio Fiaschi e a Stefano Trasatti. Da Sebastiano Barisoni lo auguro una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.